Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:15, nuovo appuntamento con Salva Danaio, l'ultimo per questa settimana. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo delle parole chiave del Sole 24 Ore, il secondo volume della serie Risparmio e Investimenti in Tempo di Crisi, che sarà in edicola domani con il quotidiano. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Marco Mariani, che è in studio con me. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. E siamo in attesa di ricevere anche l'altro collega del Sole 24 Ore, Maximilian Cellino, che sta arrivando, ce l'ha assicurato, arriverà un po' col fiatone, ma comunque siamo qui pronti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666. Partiremo da alcune parole più difficili da capire, da comprendere, anche per capire qual è poi il nesso con la realtà di tutti i giorni, la spiegazione di questi termini. Quindi se avete domande, dubbi che volete rivolgere ai nostri colleghi, prego fatevi avanti. Prima però, come di consueto, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Dopo due giorni di rialzi, forti rialzi, oggi le borse sono piuttosto nervose, tutte in negativo, adesso anche Milano. Parigi cede 0,5 punto percentuale, Francoforte lo 0,28%, Londra riduce leggermente le perdite, inflessione dello 0,23%, passa, come dicevamo, in negativo anche Milano, meno 0,23% il FTSE MIB, meno 0,29% il FTSE All Share. Sul listino principale il miglior titolo è Intesa San Paolo, che però riduce i guadagni, più 1,7%, seguito da Terna, più 1,67%, Saipem guadagna l'1,62%, la Banca Popolare di Milano guadagna l'1,61%. E se fino a un'ora fa circa era ben intonato praticamente tutto il comparto bancario, adesso anche alcuni titoli del comparto bancario sono in territorio negativo, e questo spiega il perché anche Milano è passata in negativo, visto il peso che hanno i titoli bancari sul listino principale. Il titolo peggiore resta Fondiaria Sai, meno 5,51%, pesa sul titolo l'allarme sui profitti 2011 che è stato lanciato ieri dai vertici della compagnia. Dobbiamo dire che Fonsai ha emesso la comunicazione dopo che la Consob aveva chiesto spiegazioni a seguito delle indicazioni fornite da Standard & Poor's, che nei giorni scorsi aveva abbassato il rating stimando un risultato netto inferiore alle attese. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3418 sul dollaro in questo momento. Altre notizie macro che arrivano oggi, tanto per cominciare dobbiamo dire che appunto c'è un certo nervosismo sui mercati perché c'è attesa per il dato relativo alla disoccupazione negli Stati Uniti, che verrà pubblicato alle 14:30, che è sempre un indicatore importante per l'economia. E poi ancora alcuni, diciamo, possiamo definirli in qualche modo attacchi o rimproveri piuttosto forti che arrivano dagli Stati Uniti. Il primo di questi arriva dal segretario al tesoro Gettner: una grave crisi in Europa può provocare un danno significativo all'economia americana, minando la fiducia e indebolendo la domanda. Questo ha detto Gettner, però ha anche aggiunto: le nostre istituzioni finanziarie hanno capitale a sufficienza per fronteggiare gli eventuali rischi futuri, dobbiamo continuare a tenere d'occhio la situazione. E poi ancora anche il presidente Obama: il maggior ostacolo che l'economia americana ha di fronte è la situazione in Europa. Poi ha anche aggiunto il presidente: sono in costante contatto con la cancelliera tedesca Merkel e col presidente francese Sarkozy per impedire che la situazione del debito nell'eurozona finisca fuori controllo. A proposito della Merkel, la cancelliera ha fatto sapere che questa domenica sarà a colloquio con il presidente francese Sarkozy per esaminare i futuri scenari, e quindi sempre piuttosto alta la tensione che a questo punto questa mattina si percepisce evidente e netta anche sui mercati. Intanto saluto, perché ci ha raggiunto di corsa, il collega del Sole 24 Ore, l'altro collega Maximilian Cellino. Buongiorno Maximilian. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Vi ricordo ancora i numeri 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, per introdurre il tema, io vi farei ascoltare una prima definizione che può essere utile per capirci qualcosa di più. Che cos'è il credit crunch? Credit crunch vuol dire stretta creditizia e può emergere dagli spontanei andamenti dell'economia o essere provocata dalle autorità monetarie. Si ha il primo caso quando le banche sono preoccupate della solvibilità di coloro ai quali prestano i soldi e quindi tirano i remi in barca, concedendo prestiti a condizioni più rigide, aumentando i tassi o chiedendo più garanzie. Si ha la stretta pilotata delle banche centrali quando sono queste che inducono le banche a fare meno prestiti e questo pesante invito può assumere varie forme, alzando i tassi di interesse o aumentando la riserva obbligatoria o attraverso strumenti ormai dimenticati come il massimale sui crediti, la percentuale massima di cui una banca può aumentare i crediti rispetto all'anno prima. Allora, Marco Mariani, questa è una delle tante parole che domani troveremo nel volume in edicola con Il Sole 24 Ore. È un volume dalla A alla Z, però sono state fatte delle scelte perché non era possibile evidentemente comprendere e contemplare tutti i termini che la finanza e l'economia ci propone ogni giorno, anche se di difficile approccio iniziale. Sì, i termini che abbiamo scelto sono quelli fondamentali per capire che cosa sta succedendo in questa stagione difficile dei mercati e dell'economia. Il libro nasce da una esperienza quotidiana, da un impegno che Il Sole ha preso con i propri lettori di non lasciare mai nulla per scontato, per sottinteso, per non spiegato, ma di esplicitare sempre in partenza il significato delle parole, aiutando tutti i lettori a acquisire i termini fondamentali, le parole chiave, come diciamo noi, per essere partecipi in modo molto più consapevole e diretto di tutto quello che sta succedendo e anche a capire in modo anche più concreto come orientare le proprie scelte quotidiane. Quindi sono degli aiuti molto semplici, essenziali, per non essere, diciamo, travolti da quel senso di smarrimento, di confusione che la dinamica dei mercati, anche le incertezze di cui tu parlavi oggi, sembrano quotidianamente colpire i risparmiatori, gli investitori, le famiglie. Anche perché comunque molto spesso, ad esempio nel caso specifico credit crunch, si tratta di termini che non sono italiani, ma per forza di cose, visto che ormai abbiamo una finanza e un'economia globalizzata, c'è anche bisogno di termini che possano essere funzionali proprio a questo tipo di globalizzazione, per cui diventa anche più difficile approcciare e avvicinarsi ad esempio ad alcuni articoli sul giornale. Sì, anche il nostro linguaggio purtroppo si è un po' anglicizzato, se così possiamo dire, e questo a maggior ragione ci impone la necessità di moltiplicare gli sforzi nostri nel parlare, certo, con i lettori senza ormai, come dicevo prima, dar qualcosa per scontato. Anzi, ogni volta che ci imbattiamo in un termine tecnico dobbiamo avere l'umiltà e la pazienza di saperlo spiegare, soprattutto di capire che non solo tutti i lettori non sono esperti, ma anche gli stessi esperti a volte hanno bisogno di un accesso rapido alle informazioni, e la parola chiave è l'aiuto preliminare per non spaventarsi di fronte a un, certo, fatto, a una notizia, a un'informazione. Anche perché comunque sia questi termini non è che uno li trova solo sul Sole 24 Ore, che potrebbe essere più specifico su certi argomenti, ma si trovano su tutti i quotidiani alla sezione economia, ormai è normale. Siamo anche alle televisioni per tutta l'estate, abbiamo, certo, sentito parlare di spread, di default, di downgrading, di AAA, come se fossero probabilmente con la stessa frequenza, con la stessa intensità in cui sentiamo parlare di partite di calcio, di personaggi dello spettacolo. E forse perché la crisi è intervenuta così, in maniera così netta nella nostra vita, che al pari dello sport, del calcio la domenica, dobbiamo farci i conti. Dobbiamo occuparcene, se no, per forza, l'economia si occupa di noi, e per occuparcene bene dobbiamo fare questo sforzo di comprensione, e il nostro libro, la nostra attività quotidiana vuole muoversi proprio in questa direzione. Maximilian, proprio per specificare come poi questi termini non servano solo a capire cosa sta succedendo nei grandi scenari, ma sono anche, hanno anche un riflesso nella vita pratica. Partendo proprio da Credit Crunch, ci sono un po' di articoli negli ultimi giorni che mettono in evidenza come questo stato di cose che interessa molto le banche nelle ultime settimane, che mette sotto pressione le banche, si sta riversando anche sul cliente. Quindi chi va a chiedere un mutuo, chi va a chiedere un finanziamento, sente questa stretta o comincia a sentire questa stretta da parte degli istituti. Credit crunch e spread, tanto per ricordare una parola che comunemente viene utilizzata in più accezioni peraltro, e che è collegata e che le famiglie già conoscono, perché almeno le famiglie che hanno un mutuo vanno a chiederlo. Tu giustamente facevi riferimento alla situazione finanziaria internazionale. Le banche, detta proprio nella maniera più semplice possibile, le banche fanno fatica in questo momento a reperire il denaro che serve loro per le attività, per poi dopo riprestarlo ai clienti. Più che far fatica, lo ottengono, ma lo ottengono a un prezzo maggiore. È ovvio che questo prima o poi si ripercuote sui clienti, sia imprese sia famiglie, si ripercuote, si sta ripercuotendo proprio, lo vediamo in questi giorni, in due maniere. Prima di tutto, chi accede adesso al credito può vederselo negato. Molte banche, non è un mistero, hanno alzato talmente in alto i tassi, i cosiddetti spread, cioè il ricarico che mettono sui mutui, ma anche sui prestiti di finanziamenti alle imprese, che di fatto hanno rinunciato a concederli, e proprio perché in questo momento per loro non è più conveniente farlo e preferiscono ritirarsi anche momentaneamente dal mercato. Una cosa che è successa, un fenomeno che è successo anche dopo la crisi Lehman e poi è rientrato, adesso sta risuccedendo di nuovo. Chi invece continua a concedere prestiti lo fa a un prezzo superiore rispetto a quanto poteva farlo 5 o 6 mesi fa. Gli spread sui mutui stanno aumentando di 30, 40, 50 punti base, cioè dello 0,3-0,5%. Vale sempre la pena ricordare che questo sta riguardando un fenomeno che sta riguardando chi in questo momento va alla ricerca di un mutuo o di un finanziamento. Chi in questo momento ce l'ha già invece il mutuo e il finanziamento può approfittare dei tassi estremamente bassi, che probabilmente rimarranno bassi, almeno i variabili parliamo. Certo, penso per il prossimo 1-2 anni, insomma, non facciamo previsioni, ma insomma. Anzi, c'era chi si attendeva già un taglio da parte della BCE già ieri, questo non c'è stato, come era poi prevedibile, perché insomma gli analisti non, nello specifico proprio non avevano preventivato un taglio, ma questo potrebbe anche succedere nei prossimi mesi. È probabile, e qui forse andiamo un po' troppo sul tecnico, però va rilevato anche questo: le mosse che ha fatto ieri la BCE, ha fatto alcune mosse per andare incontro alle banche, vanno più nella direzione di facilitare la concessione del credito, cioè il primo problema, chi va a cercare il mutuo, il tasso, insomma. Sono le 12:32 minuti, 53 secondi, e allora abbiamo in linea Giovanni da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Cinica. Una domanda semplice e anche forse che non serve. Capisco che tutti i termini a livello mondiale, i termini bancari, vengono espressi in inglese, ma quando voi parlate in Italia di certe cose, perché non ce le dite in italiano, così capiamo tutti? Allora, signor Giovanni, intanto la mia personalissima opinione, tutte le domande servono sempre. Marco Mariani, perché non si può parlare, non si possono tradurre in italiano questi termini? Ma diciamo che viviamo in un mondo globalizzato, dove l'economia è a sua volta globalizzata, e l'inglese purtroppo detta legge nel linguaggio e impone alcuni termini, sia per uso corrente, sia perché in alcuni casi sono anche associati a un significato specifico difficilmente traducibile in italiano o non traducibili con altrettanta, perché non rende la con stessa altrettanta idea, efficacia. Diciamo, certo. Quindi possiamo parlare di, citava prima Max, lo spread, che è il ricarico, forse il ricarico ripetuto nei titoli e nei telegiornali non avrebbe avuto la stessa forza comunicativa che ha tuttora lo spread. Però rimane l'indicazione importante del lettore, dell'ascoltatore, il suo suggerimento va raccolto in pieno, di tradurre il più possibile, di vincere anche quella pigrizia intellettuale che a volte ci prende, o quella forma di snobismo per cui parliamo in inglese quando è possibile trovare un termine corrispondente in italiano. Una mia curiosità, mi veniva in mente se magari qualche volta c'è stato qualche lettore del Sole che vi ha scritto dicendovi che c'erano articoli troppo complicati, troppo tecnici, troppo pieni di queste parole che non si capiscono proprio a un primo approccio, e vi ha in qualche modo richiamato a una maggiore semplicità. Diciamo che l'attenzione da parte dei nostri lettori sulla qualità delle informazioni, sulla chiarezza del nostro stile è sempre altissima. E lo so, per questo, quindi, te lo chiedevo, perché anche per noi vale lo stesso. Sono arrivate anche parecchie segnalazioni di segno positivo da quando pubblichiamo in modo sistematico e puntuale la parola chiave accanto ad ogni tema forte della giornata, lettere di lettori che ci ringraziano perché gli offriamo la chiave di lettura per capire un articolo sul quale noi abbiamo investito tanto in termini di importanza e di rilievo, dandogli proprio il punto di ingresso alla porta per entrare su quell'argomento e non sentirsi frustrato da un termine tecnico che non capisce. Abbiamo parlato più volte in questi primi minuti di trasmissione di spread, sentiamo la definizione. Lo spread è una delle componenti del tasso di interesse di un mutuo o di un finanziamento. Letteralmente si tratta di una differenza. Nel caso dei titoli di Stato, lo spread è riferito alla differenza tra i rendimenti delle obbligazioni governative italiane, in particolare il BTP, e il corrispettivo tedesco, il cosiddetto Bund, sulla scadenza decennale. Più alto è lo spread, maggiore è il rischio percepito dagli investitori verso i titoli di Stato italiani. E infatti ci scrive un ascoltatore: spread uguale differenziale. Punto di domanda semplice. Maximilian, è semplice. È vero, differenziale, potrei dire anche margine quando parliamo di banche, perché in realtà è il guadagno, quantomeno la remunerazione per il rischio che corrono le banche. Sono molte maniere di spiegare lo spread, differenziale, differenza, come abbiamo detto prima. Il problema è un altro, è che al di là del fatto che, parlando del giornale, spread su un titolo è molto più funzionale che differenziale, certo, oltre che più corto. Questo magari i lettori, gli ascoltatori non si pongono questo problema, sicuramente. Noi ce lo poniamo. Però è un dato di fatto che poi le famiglie si trovano di fronte a questa parola, si trovano di fronte quando vanno a fare un mutuo, si trovano di fronte quando leggono un giornale, e anche quando sentono i telegiornali della sera, ne parlano i politici, per cui è bene cercare di familiarizzare con queste parole. Detto questo, la traduzione è sempre necessaria quando ci sono termini anglosassoni, anche perché questo è un parere personale, sono molto brutti. Questo è un parere personale. Noi ci sforziamo sempre di tradurli e di semplificare anche quello che ci dicono gli operatori, perché io parlo spesso con gli operatori, ogni quattro parole tre sono probabilmente in inglese. Ci sono delle italianizzazioni di parole in inglese che fanno assolutamente sorridere. Noi ci proviamo sempre, e anche con un giro di parole. Devo dire che forse spread può essere traducibile, altre non sono così facilmente traducibili. Quantitative easing è un'altra bella parola che si è sentito parlare. E tra un pochino arriviamo anche a quella lì. Io lo posso anche tradurre con un alleggerimento quantitativo, però non è proprio bellissimo. In realtà per tradurlo occorre un bel ragionamento che porta via due o tre righe di una, o 30 secondi, certo, magari di una trasmissione. Però per tornare allo spread, visto che ormai tutti sappiamo di questo differenziale BTP Bund perché se ne parla in ogni telegiornale, non c'è articolo ogni giorno che non ci racconti a quanto è, a questo punto le famiglie italiane cosa devono pensare dei titoli, tanto per riagganciarci invece alla realtà di tutti i giorni di una famiglia che intende in qualche modo investire quel poco tanto che ha. I titoli di Stato italiani oggi, È una domanda estremamente complessa, perché i titoli italiani di Stato in questo momento, per chi li acquista adesso, mi riferisco, hanno dei rendimenti che sono assolutamente di grande interesse. Se si pensa che un bot a un anno rende al lordo più del 4%, che sì, rappresenta un 3,3% netto, sono tassi che non sono quelli degli anni 80, ma sono molto molto elevati, e arrivano anche a coprire un'inflazione che non è indifferente in questo momento, perché viaggia attorno al 3%, e questo non è avvenuto sempre in passato. Detto questo, anche per i BTP, i titoli a media lunga scadenza, sì, si possono fare ragionamenti simili, però le famiglie si devono anche chiedere perché i tassi sono così elevati, e nessuno regala niente, noi lo diciamo sempre, ma qualcuno forse si scorda di questo, nessuno regala niente nel mondo della finanza, del risparmio e dell'investimento. Se i tassi sono più elevati è semplicemente perché il mercato percepisce come più rischioso l'investimento nel nostro paese. Avrà ragione o torto, starà esagerando il mercato, ci saranno i cosiddetti speculatori, questa famigerata figura che ci stanno penalizzando oltre misura, su questo potremmo discutere, però al risparmiatore deve resta in mano, che vuole acquistare un titolo del genere, deve avere presente che non è più un titolo assolutamente privo di rischio come lo era 2 o 3 anni fa. Del resto non esiste in questa particolare fase un'attività che sia assolutamente priva di rischio. Altro SMS: si usano termini inglesi per non farci capire nulla, spesso si nascondono delle fregature, parlare chiaro è segno di correttezza. Marco Mariani, una considerazione che forse è di tanti, perché alla fine forse chi legge, diciamo il lettore medio, ma anche l'ascoltatore medio della radio, lo spettatore medio della TV, pensa che molte delle volte si usino questi termini un po' per intortare chi ci sta di fronte. È una polemica che probabilmente si trascina da secoli. Sì, certo. Però quando le cose vanno male è ancora peggio. L'uso del linguaggio tecnico per creare una cerchia di iniziati che preclude necessariamente la comprensione a tutti gli altri. A maggior ragione è invece un'opera di trasparenza, di chiarezza, di coinvolgimento nella comprensione, quello di per prima cosa chiarire i termini della questione, le parole chiave appunto di cui parliamo nel libro, come passo preliminare. Forse la segnalazione del lettore è un po' viziata da una tendenza tipica dei nostri tempi, soprattutto delle comunità su internet, di vedere complotti un po' dappertutto, quindi l'idea che ci sia anche una macchinazione nel non voler far comprendere le cose. Sicuramente però coglie nel segno quando sottolinea che l'uso di un linguaggio eccessivamente tecnico o ermetico preclude la comprensione e mette le famiglie, i risparmiatori nella condizione di non essere partecipi di fatti che invece li riguardano in modo, da vicino, in modo molto diretto e coinvolgente. Il rischio è quello di pensare che si parli solo di cose che sono lontane, ma invece nei fatti hanno dei riflessi molto importanti sulla vita quotidiana di tante famiglie. E un altro ascoltatore ci scrive: ma se io ascolto o leggo e non capisco, cosa lo faccio a fare? Che esercizio è quello poi di leggere qualcosa che non lo si capisce? Questo rientra ovviamente nel discorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Ascolterai un'altra definizione, anche questa molto usata negli ultimi mesi: double dip. Per double dip si intende la recessione a W, dove un falso segnale di ripresa dà invece vita a una nuova fase di debolezza economica. Le recessioni possono anche essere a V, con rapida caduta e rapida ripresa, a U, con una fase di stagnazione che fatica a sbloccarsi, e infine a L, quando la recessione è caratterizzata da un lungo periodo di stagnazione, dopo una fase di rapido deterioramento. Allora, Maximilian, la domanda delle domande, questo double dip, una ricaduta, spettro. Possiamo parlare ricaduta? Sì. Pensate a una malattia dalla quale uno sembra riprendersi, E poi dopo gli torna un po', gli torna la febbre, insomma, questa persona. Una ricaduta, si scrive anche nei certificati medici, mi sembra. Sì, ricaduta, però qui abbiamo così, avuto... Lo mettiamo su un titolo, ricaduta, però forse magari le persone non so se capiscono molto. O se percepiscono Double dip non lo capiscono assolutamente, però se uno scrive double dip e poi lo spiega, forse è meglio. Però forse abbiamo avuto la sensazione di non esserci mai ripresi da questa, come dire, da questa recessione che ci è passata sopra. Beh, una mini ripresa c'è stata negli Stati Uniti, anzi nemmeno tanto mini negli Stati Uniti, molto forte in Germania, un po' meno forte nel resto d'Europa e anche in Italia, dove abbiamo avuto dei tassi di crescita positivi, ma non tanto positivi. Noi abbiamo sempre questo, stiamo sempre arrancando. Il problema è se ci sarà questo double dip, cioè una nuova ricaduta in recessione. Ne sono un po' convinti quasi tutti per gli Stati Uniti e poi probabilmente è ricaduta anche in Europa e ahimè in Italia. Ne sono convinti quasi tutti, ma ancora il segnale ufficiale, che sono due trimestri di crescita negativa, cioè di recessione, di rallentamento della crescita, non si sono verificati. Tra l'altro, finché nel momento in cui il mercato ha cominciato a parlare di questo spettro di doppia recessione, di double dip, ed è pesantemente crollato, oltre ai problemi del debito, oltre che sui problemi del debito europeo, curioso che i dati degli Stati Uniti, che sono quelli che si guardano con più importanza, oggi ce n'è uno importante alle 2:30 sul mercato del lavoro, hanno incominciato a dare qualche indicazione positiva, o quantomeno migliore delle attese, e soprattutto i dati prospettici, perché ci sono una serie i dati differenti, quelli, anche qui termine inglese, lagging, cioè che guardano all'indietro, sono ritardati, guardano i mesi precedenti, altri che invece sono anticipatori, prospettici. Questi qui, che riguardano la fiducia, il clima fra le imprese, danno già risultati un po' migliori di quanto si attendeva, quindi non è pacifico che ci sia una recessione, che peraltro scrivevamo anche oggi sul quotidiano, qualche casa d'affari come Société Générale dà con probabilità del 65% addirittura negli Stati Uniti, quindi molto alte. Esatto. Le 12:48 minuti, sempre in diretta con Salva Danaio, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. E allora, ci continuate a scrivere che comunque secondo voi parlare con termini non italiani è una facciata per in qualche modo distogliere l'attenzione, confondere il lettore, l'ascoltatore, insomma chi guarda anche i giornali. Però io volevo girare a questo punto a Maximilian altro sms: se non comprassimo più prodotti finanziari se non integralmente tradotti in italiano? Io credo che non si debba esagerare, è buona norma tradurli in italiano quando si può, perché ripeto, ci sono alcuni termini che sono intraducibili. Però sul discorso generale del raggiro delle persone che si trovano di fronte, che parlano in linguaggio tecnico, insomma, mi sembra di ricordare, se ne parla da secoli, come diceva prima Marco Mariani, ricordo anche Manzoni, insomma, tanto per non ricordare Renzo e Azzeccagarbugli, insomma. Però quello che voglio dire agli ascoltatori, ai risparmiatori, ai clienti è che quando si trovano di fronte o allo sportello o dal promotore una persona che parla con eccesso di questi termini, lo si può sempre fermare e cercare di farsi spiegare. Io diffiderei, sono d'accordo con loro, diffiderei dalle persone che li usano in continuazione, a volte anche a sproposito, perché ci sono i termini italiani capacissimi di tradurre quello che loro vogliono dire. Purtroppo loro stanno sul mercato parlano in inglese, e quindi viene anche una certa difficoltà. Mi immagino la gente che parla con shortare o problemi o parole simili, insomma, lo dicono ogni giorno, è molto brutto, si può dire andare corti o vendere allo scoperto un'azione o un titolo. Torno però al discorso principale, cioè quando avete di fronte persone che parlano con eccesso di anglicismi o di termini tecnici, perché poi magari non sono nemmeno soltanto inglesi ma anche italiani, cioè anche in italiano ci sono termini tecnici, la cosa migliore è fermarli e farsi spiegare, insomma. Avete di fronte, state gestendo il vostro denaro, impiegate anche un po' di tempo, ecco. Giustamente, ci sono degli ascoltatori che ci riprendono a proposito delle probabilità con le quali viene dato il double dip. E allora ci scrive Ferdinando da Bologna, secondo Rubini ci sarà. E un altro ascoltatore che dice, come vi raccontavo prima durante la viabilità, ma che double dip è un one big dip. Il venerdì un po', siamo sì, un po' tutti ormai sì, proiettati nel weekend, ognuno dice la sua. E magari dip con due, quindi profondo, proprio molto profondo. No, l'ascoltatore scrive proprio dip. No, però insomma, giusto per fare un po', sì, un po' di giochi di parole anche in inglese. Sì, mi sembra che non abbiamo sottovalutato il rischio di doppia recessione. Ho appena detto che ieri Societe Generale se ne è uscita con una probabilità del 65%, forse quella di Rubini, che è una persona sempre abbastanza pessimista, magari ci azzecca anche, sono più elevati. Mi sembra che fosse uno dei pochi che ci aveva azzeccato nel 2008, se non sbaglio. Sì, comunque mi sembra che anche il 65% di probabilità non siano molto basse. C'era un altro economista, il più citato in questa estate molto difficile, che era Ken Rogoff, sì, il quale ha detto che siamo nel pieno di quella che lui definisce la seconda grande contrazione, sì, cioè un lungo periodo di crisi di almeno 6-7 anni, e quindi in base ai suoi calcoli ce ne toccano anche 2-3. Però forse piuttosto che parlare in italiano di seconda grande contrazione, a questo sì, punto certo, è meglio double dip. Un altro sms, questo tanto per tornare all'attualità, perché visto che prima abbiamo parlato di titoli di Stato, di BTP anche, qual è il rischio, ci chiede un ascoltatore, che si abbassino gli interessi o altro? Maximilian, visto che abbiamo detto che comunque è un buon investimento, ma c'è un rischio allora, legato al... Bisogna fare delle distinzioni, perché io prima ho detto che è una buona occasione per chi se li sta acquistando adesso, perché si mette, e magari è un cassettista, perché si mette in cassaforte un discreto interesse da qui ai prossimi 3, 5, 10 anni, non so, la durata che vuole scegliere, meglio quelle corte, ma insomma, ora non è questo il problema. Qual è il rischio? Bisogna distinguere tra il risparmiatore che compra e vende in continuazione le obbligazioni e quello che invece le tiene nel cassetto. Quello che le tiene nel cassetto, come abbiamo detto prima, le mette lì, alla fine riavrà 100, sempre sì, se lo Stato o l'emittente è in grado di restituire il denaro. E anche su questo ovviamente ci sono delle perplessità, dei dubbi e dei rischi. Chi invece li acquista e li vende ogni giorno deve fare attenzione a molte, molte variabili. Vale la pena di ricordare che il tasso di interesse di un'obbligazione si muove in senso contrario al prezzo. Quando voi vedete che i tassi di interesse crescono, per chi domani vuole andare a comprare è un buon segnale, per chi invece ce l'ha in tasca e vorrebbe rivendere non è un buon segnale, perché un rialzo dei tassi di interesse implica automaticamente un abbassamento del prezzo. Cosa succede? Che se voi l'avete comprata, mettiamo a 100, e il prezzo vi scende a 95 e la volete rivendere prima della scadenza, alla scadenza vi rendono 100, ma se la volete rivendere in precedenza rischiate di avere una perdita in conto capitale, cioè di ricevere meno capitale di quanto avete versato. Nico da Verona, velocissimamente la ringrazio. Buongiorno, faccio velocissimo perché so che siamo in chiusura. Volevo chiedere invece, insieme a definire meglio i termini in inglese, non sarebbe il caso anche di far caso ai termini in italiano che qualche volta vengono usati in modo improprio, tipo esempio quando si dice bruciati 150 miliardi in borsa in un giorno? Non è proprio un bel termine, mi sembra un po' da terrorismo mediatico. Tutto allora qua. Grazie a Nico da Verona, una risposta flash da Marco Mariani, e poi vi ricordo che domani il volume è in edicola con il quotidiano a 50 centesimi in più. Meno di un caffè. La risposta rapida, che il lettore ha ragione, perché è spesso è una forma di pigrizia quella dei giornali di scrivere automaticamente quando succede succedono dei tracolli di borsa bruciati, tot miliardi, certo, di capitalizzazione, anche se spesso si tratta di eventi solamente virtuali, certo, che... legati a quella giornata lì, e poi bisognerà vedere che cosa succede il giorno successivo. L'impegno da parte nostra, da parte del giornale, è quello di essere sempre la parola chiave, di fornire sempre questa chiave di accesso per tutti. Grazie a Marco Mariani e a Maximilian Cellino per essere stati con noi. L'appuntamento con Salva Danaio è per lunedì. Arrivederci.